Per libero arbitrio si intende che la volontà umana abbia il potere e sia in grado di prendere delle decisioni. Una verità, questa, che si perderebbe nell'immenso mondo di tante altre verità, se non fosse per una disputa, verificatasi tra Erasmo e Lutero, nel XVI secolo, la quale segnò profondamente e drammaticamente la storia del pensiero religioso. Erasmo di Rotterdam fu incitato dai papi Leone X 1521, Adriano VI 1522 e il neoeletto Clemente VII 1524. Con le felicitazioni di Enrico VIII e del cancelliere dell'imperatore Giorgio di Sassonia, a scrivere contro Lutero allo scopo di trovarlo in fallo, in risposta al grandissimo trambusto da quest'ultimo, provocato in merito alla giustificazione per fede. Erasmo adempì alla richiesta tra il 2 e il 5 settembre 1524. Nello scegliere l'argomento finalizzato a provocare una disputa con Lutero, Erasmo scelse la questione del libero arbitrio, cioè se l'uomo è libero di scegliere la grazia offerta da Dio e quali sono i suoi rapporti con la grazia divina. Nel leggere lo scritto di Erasmo e la risposta di Lutero, si comprendono immediatamente le due posizioni. Erasmo difende a spada, tratta le decisioni del cattolicesimo a quattro, che vede nell'uomo la capacità di potersi guadagnare la grazia divina, mentre nella risposta di Lutero, dal titolo Il servo arbitrio, appare evidente la sua serrata difesa in favore della giustificazione del peccatore, il quale può essere salvato senza le opere della legge. Per Lutero l'uomo non può fare nulla, ma proprio nulla, per essere salvato. Mentre per Erasmo è questione di sinergismo, secondo il quale nell'opera di salvezza individuale Dio e l'uomo cooperano assieme. Queste due prospettive condizioneranno fatalmente ogni loro ragionamento teso a spiegare ciò che è scritto nella Bibbia, con citazioni e spiegazioni di innumerevoli versetti, e per questo a volte può capitare di trovarsi in accordo sia con l'uno sia con l'altro. Con Erasmo, in merito al fatto che all'uomo Dio chiede di prendere delle posizioni morali nei suoi confronti, richiesta che presuppone il libero arbitrio, mentre si è pienamente d'accordo con Lutero che l'uomo è salvato solo per grazia, mediante la fede, Lutero cade però nell'eccesso. Mediante la verità del Vangelo conclude ogni ragionamento con l'affermazione che qualunque cosa sia da noi fatta non è opera del libero arbitrio, ma dalla pura necessità, poiché la volontà dell'uomo è totalmente corrotta, al punto da non essere in grado scegliere il bene. Uno scontro infinito tra due ciclopi del pensiero, che può essere risolto senza cadere in risposte estreme perché, come si dice, ciò che è troppo stroppia. Che non ci sia nell'uomo la libertà di scegliere nel senso assoluto, non è vero e non può essere vero. E anche chi sostiene il servo arbitrio non può negarlo. Non può. Come dice anche Melantone, l'amico di Lutero, Dio dà all'uomo una certa capacità di ragione e di libera scelta. La volontà umana è libera di amare le cose naturali, come ad esempio nella scelta di questo o di quel genere di cibo, di usare questo o quel tipo di vestito, di andare di qua o di là, anche la forza di produrre la giustizia carnale e civile, può trattenere la sua mano dall'omicidio o dal furto, può evitare l'adulterio. Lettera dedicatoria 15. Se l'uomo non avesse la facoltà di prendere decisioni, sarebbe un totale automa controllato da Dio, responsabile di nulla e di nessuno. L'esistenza stessa sarebbe una commedia. E questo nessuno lo dice o lo vuole dire. Nella Bibbia decine e decine di volte Dio ordina, Levitico 18.30, l'uomo a scegliere. Quindi, come interpreta Lutero questi ordini? Per proteggere la salvezza per grazia, Lutero spiega più volte il suo punto di vista a modo seguente. Sono tutti imperativi che non indicano ciò che noi possiamo fare o facciamo, ma ciò che dobbiamo fare e che si richiede da noi, onde noi possiamo conoscere la nostra impotenza e possiamo prendere coscienza del nostro peccato. 688. E perché il suo pensiero sia chiaro, dice ancora, se noi dessimo a queste frasi il senso indicativo, esse sarebbero delle promesse di Dio, e siccome egli non può mentire, ne risulterebbe che nessun uomo pecca, ed i comandamenti sarebbero stati dati invano. 676. Temo che questo sia il tallone Achille del ragionamento di Lutero, cioè il fare una netta separazione tra imperativo e indicativo, quando Gesù disse: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi benedicono, non giudicate affinché non siate giudicati, entrate per la porta stretta, pregate il Signore della messe. Si trattava di imperativi o indicativi. Gesù fornisce solo una indicazione di ciò che dobbiamo fare, oppure fornisce solo un comando, al quale risulta un preciso, inderogabile obbligo? Non è per Gesù la stessa cosa, non è lui, sia la via che indica, sia la verità che obbliga? Nell'indicare ciò che dobbiamo fare, ci fa comprendere anche la sua tassativa volontà. Dov è il problema? Quando Gesù ordinò ai discepoli di andare a due per predicare, quando ordinò di andare nei villaggi, quando mandò Pietro e Giovanni a preparare la Pasqua, Luca 22.8, emise ordini indicativi o imperativi, quando i discepoli di Giovanni il Battista, LC 3.12, quando la folla che seguiva Gesù, GV 6.28, quando coloro che ascoltarono il primo messaggio evangelico di Pietro, At 2.37, chiesero: cosa dobbiamo fare? Le risposte erano imperative o indicative. Fare una netta distinzione è un'assurdità. Quando un genitore comanda a suo figlio di non mangiare un certo cibo, è un indicativo o un imperativo? Se si batte questa strada, la ragione umana arriva a sragionare. Così, se si vuole cavillare sui comandamenti di Dio domandandosi se siano tutti imperativi, non indicanti ciò che noi possiamo fare o facciamo, ma ciò che dobbiamo fare e che si richiede da noi, non si fa un ragionamento sensato, ma si esprime il risultato di certi presupposti, che dobbiamo scoprire. Come disse Lutero, il punto focale della discussione del servo e libero arbitrio è quello di non dare un qualsiasi vanto alla scelta dell'uomo e che la salvezza dipende totalmente da Dio. Più che d'accordo, ma un obiettivo è valido, anche se è accompagnato da giusti metodi. Paolo disse che se uno compete nelle gare atletiche, riceve la corona unicamente se ha lottato secondo le regole, 2 Terametri 2.5, così il giusto obiettivo di Lutero doveva essere raggiunto con leciti discorsi. Che tutti gli uomini, nessuno escluso, siano totalmente depravati, corrotti, incapaci di scegliere e di cercare Dio, è palesato in tutta la scrittura, RM 3.11, e, proprio per questo, nel suo amore Dio, opera nel cuore di tutti gli uomini prima ancora che in loro sorga qualsiasi sentimento religioso. Anche perché il volere di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, nessuno escluso, 1 Tim 2.4. Nel libro dell'Ecclesiaste sta scritto: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Ecclesiaste 3.11. Il salmista disse: il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, o eterno. Isaia 27.8. E Gesù esclamò: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre, che mi ha mandato. GV 6.44. Dunque Dio ha messo nell'intimo di ogni essere umano la verità relativa alla sua esistenza e alla continuità della vita anche dopo la morte. Ne sono una dimostrazione tutte le religioni che credono ad un'esistenza ultraterrena. Il salmista riconosce che se in lui esiste una spinta a ricercare Dio, è perché questo stimolo gli è stato dato da Dio stesso. Gesù testimoniò che nessuno avrebbe potuto credere in lui se non ci fosse stata prima l'opera di Dio. Ogni altro ragionamento in merito all'uomo, anche quello della totale corruzione, deve tenere presente questi presupposti, cioè che Dio fa nascere una buona volontà in tutte le persone totalmente corrotte, in modo che possano credere ed essere salvate. Tutto questo tramite la persona dello Spirito Santo. Così la totale corruzione dell'uomo, quell'uomo incapace di scegliere il bene assoluto ma ancora in possesso di quella libertà di scelta, e l'opera dello Spirito Santo, trovano un punto d'incontro. Dato che l'uomo ha un certo libero arbitrio, cioè in grado ancora di scegliere, la persona dello Spirito Santo stimola questa volontà verso Dio e mediante questa sua volontà imperfetta, l'uomo sceglie di seguire la convinzione operata in lui dallo Spirito o di rifiutarla. La famosa condanna di Gesù "quante volte ho voluto ma voi non avete voluto" si riferisce proprio a questa volontà. In questo modo l'uomo non ha nulla di cui vantarsi, perché se non fosse stato per l'opera compiuta in lui dalla persona dello Spirito Santo, egli non avrebbe intrapreso nessuna ricerca di Dio e conseguentemente non avrebbe fatta nessuna scelta. Il tutto, tuttavia, avviene senza che nel contempo vi sia alcuna presupposta violenza causata dalla sovranità di Dio. Infatti, se, come sostenuto da Lutero e, con lui, anche Calvino, prima ancora della loro nascita, Dio elegge alcuni a salvezza e altri a perdizione, allora ne consegue che agli uomini si è imposto di andare in un luogo, che piaccia loro o no. Un simile messaggio estremo non lo trovo nelle scritture, anche se per sostenerlo ci si appella al fatto che Dio è sovrano e fa quello che vuole. Anche questa verità, portata all'estremo, non è buona, e come disse Melantone riferendosi al carattere di Lutero, alle sue esequie, il 22 febbraio 1546, neppure io nego che talvolta si pecchi per troppa veemenza. Perciò, dopo centinaia di anni da questa diatriba tra Erasmo e Lutero, a mio avviso non ha senso convalidare una di queste due posizioni con un totale consenso. Si può certamente condividere in generale il pensiero di Erasmo senza condividerne la conclusione, secondo la quale l'uomo merita la grazia quando fa tutto ciò che è in suo potere, come, si è completamente in accordo con Lutero, quando sostiene che nessun uomo può in alcun modo ottenere giustizia per mezzo delle proprie opere, 772, ma si dissente, altresì e con altrettanto vigore, dalla sua opinione che non può esserci libero arbitrio né presso l'uomo né presso gli angeli né presso alcuna creatura. 786. Una posizione questa, apparentemente molto onorabile, perché tesa a dare gloria solo a Dio. Ma la gloria a Dio si può dare solo se ci si esprime in conformità al suo carattere. Anche i testimoni di Geova pensano di dare gloria a Dio dicendo che K è un solo Dio e che Cristo è un Dio inferiore. Come anche l'Islam, il cui pensiero è teso a dare gloria a Dio, insegnando che Allah è talmente grande da non poter avere una relazione con l'uomo. Posizioni che mi incoraggiano a non cadere a mia volta in nessun estremo. E, se la Bibbia parla di un Dio sovrano, della corruzione dell'uomo, parla di fede, di grazia e di opere, se invita continuamente l'uomo a scegliere, Ger 21.8, se lo ritiene responsabile delle sue scelte, GV 3.19, 5.40, 2 Tess 2.1012, Osea 11.5, se gli attribuisce la colpa di non vedere e di udire, 8 MT 13.15, se parla di elezione e di predestinazione dei salvati e non dei perduti, Peppe 1.5, 11, 8.29, 30, se parla dell'amore di Dio in modo universale e non selettivo, GV 3.16, RM 1 e 16, 9.33, 10.1113. Accetto tutte queste verità senza incaponirmi su di una a discapito delle altre. Come dice il libro dell'Ecclesiaste, non essere troppo giusto e non farti troppo saggio, perché vorresti rovinarti? Altre traduzioni rendono tracaplan, perché vorresti distruggerti, perché vorresti perire. Essere giusti e saggi è buono e doveroso, ma esserlo troppo meno, cioè all'estremo meno, è una rovinosa disfatta. Sta a noi scegliere, con il libero arbitrio. Contributi. C.S. Lewis. Il problema della sofferenza. La dottrina della depravazione totale, quando si giunge alla conclusione che essendo noi totalmente depravati, l'idea che abbiamo del bene non ha nessun valore, può così trasformare il cristianesimo in una forma di culto satanico. La libertà di una creatura deve essere libertà di scelta, e la scelta implica l'esistenza di cose tra cui scegliere. Buono il commento al patto di Losanna descritto nel libricino di John Stott, Tutta la Chiesa deve portare tutto il Vangelo a tutto il mondo, edizioni GBU 2010, pag. 40. Alcuni possono chiedersi in che modo queste affermazioni si collegano alla dottrina dell'elezione, che la Scrittura insegna, e in che modo la sovranità divina nella salvezza possa essere conciliata con la responsabilità umana. I teologi hanno combattuto per secoli con questo tema. La Bibbia insegna entrambe le verità. Tuttavia, per quanto possa sembrare paradossale, coloro che sono salvati devono ascrivere ogni credito a Dio, mentre coloro che periscono devono dare la colpa unicamente a se stessi. Aprile 2011. Ellero.